in tutti i visi che ti guardano, lo senti accanto a te, non è soltanto un nome che puoi dimenticare, è qualcosa che fa parte di te. Come te.